incatenato sotto di esso. È un cattivo gene, non accetti il compromesso. Per umiliazioni, spinte e raccomandazioni, non baratta e non ritratto le mie idee, le mie canzoni. Resta a testa alta anche quando tutti contro. Conto su chi mi sta accanto quando c'è uno scontro. Chi ci controlla i soldi per fare le guerre, per coltivare il male come piante nelle serre. Qua c'è chi si chiede a cosa serva l'intelletto, puntando proprio tutto sul fisico perfetto, cercando una spinta convinta dalla menzogna. Troppi ministri scelti e rifatti come Carfagna, hanno il loro posto perché si sono venduti. Capisci il loro costo e non avere gli attributi. Ogni studente duramente studia per non fare niente. Se non venderà se stesso non sarà un dirigente. Non conta più il quoziente o l'essere sapiente, perché una velina diventerà presidente. Ma io reagisco a testa alta col mio disco, mentre chi evade il fisco comanda e dà lo sbando. C'è chi sta felice ma vorrebbe ancora il duce, e mina la tua pace più furioso di Orlando. Mentre che leggi vara e tara corpi in una para, c'è chi si crede un simbolo come il Che Guevara. Io continuo a testa alta contro chi controlla i poli. La storia siamo noi come il programma di Minoli. A testa alta scelgo soluzioni, se questa vita è fatta solo di tensioni. L'uomo che c'è in me deve sopportare il peggio, conta solo se alza la testa con coraggio. A testa alta scelgo soluzioni, se questa vita è fatta solo di tensioni. L'uomo che c'è in me deve sopportare il peggio, conta solo se alza la testa con coraggio. C'è chi mi odia perché non sorrido spesso, ma la mia voglia di sorridere ha un potenziale immenso. E mi tocca convivere con chi la fa difficile, vederlo nei miei occhi come Benson. E mi è impossibile vivere con il limite interiore, ma ormai ce l'ho per indole. Ma troppe le persone affette dalla frustrazione, che ogni sbalzo d'umore ammette ogni errore. Riflette le spente smanie da convinzione, che la ragione ti ha mangiato e ti ha lasciato le briciole. La tua espressione ti ha mostrato l'altro lato e ti convince che alle volte è meglio fingere, detto in parole spicciole. Chi ti ha ingannato sei il tuo tallone d'Achille, e mette in discussione le cose a cui dà un valore. Ma è solamente invidia, di motivi ce n'è mille per colpire a sorpresa più del finale di un film thriller. Vita incompresa, conosco quanto è dura, e se hai paura di soffrire già soffri per paura. Ma ti basta capire che la musica è la cura, tu usala e dopo incula chi per golo, per lussuria ti sta addosso con la scusa del vorrei. Ma non posso, io posso dirti addirittura che il cuore delle persone è una serratura, ma una chiave di sol è la mia chiave di lettura. A testa alta scelgo soluzioni, se questa vita è fatta solo di tensioni. L'uomo che c'è in me deve sopportare il peso.